Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Allora, la promessa è che oggi vi racconteremo la ruota come mai prima d'ora. Cioè, esattamente. Oggi la reinventiamo. No, perché la verità vera è che anche la ruota non è più quella di una volta. Anche la ruota, come le mezze stagioni. Esatto, non ci sono più le stagioni di mezzo, le mezze stagioni, anche la ruota non è più quella di una volta. Dici la ruota è la ruota. No, la macchina più vecchia del mondo. Ma poi si dice anche, ma ruota è ruota, caro. Che poi si dice anche quello lì sembra che abbia inventato la ruota. Come dire, quello ha inventato la coda del secolo, invece no. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Chi vi sta parlando è Luca Tremolada, che sta discorrendo piacevolmente con Sandro Mangiaterra. Buongiorno oggi a tutti. Vi parleremo di un produttore di ruote un po' diverso dagli altri, ma prima le news. Ancora notizie sul fronte Google Cina. Un quotidiano del Partito Comunista Cinese ha accusato oggi Google di collusione con spie americane, dicendo che la decisione dell'azienda di ritirarsi dalla Cina a causa della censura giustifica gli sforzi di Pechino di promuovere una tecnologia sviluppata in casa. Intanto un centinaio di attivisti per i diritti umani hanno manifestato il loro sostegno per Google davanti alla sede di Pechino dell'azienda di informatica americana. Infine, a complicare ulteriormente il quadro, la Tom Group, compagnia che opera su internet di proprietà dell'uomo più ricco di Hong Kong, Li Ka-shing, ha annunciato oggi di aver tagliato il collegamento con il motore di ricerca di Google. Tom, che gestisce i servizi internet in gran parte della Cina, ha detto in un comunicato che il gruppo aderisce alle regole della Cina. La borsa va pazza per le novità dell'elettronica, ma soprattutto per il 3D. L'annuncio della console DS in 3D e senza occhiali ha messo le ali al titolo della Nintendo sulla piazza di Tokyo. Il colosso videoludico di Kyoto ha annunciato che entro il 2011 uscirà 3DS, una nuova console portatile con effetti 3D, anche senza indossare occhiali. Infine, appuntamento per creativi, sviluppatori e imprenditori del web. Venerdì a Milano, Tech Garage Clean and Green, uno startup camp dove saranno presentati e premiati i business plan dei migliori progetti imprenditoriali, clean e green tech. Indicazioni più precise sul Twitter di Novalab24, www.twitter.com/Novalab24. Allora, noi oggi, raccontando il mercoledì di aziende innovatrici, andiamo in quel di Formigine, in provincia di Modena. Vicino alla Ferrari. Perché abbiamo in collegamento Elena Lancellotti, buongiorno. Buongiorno. Amministratore delegato della Tellure Rota. Detto bene? Sì. Buonissimo, buongiorno. Buongiorno dottoressa Lancellotti. Ora buongiorno, la novità. Ora la novità è appunto incredibile, ma vero: la ruota è un prodotto high-tech, ad alta tecnologia. È sempre incredibile, ma è proprio così. Noi che produciamo Formigine continuiamo a investire sul prodotto più antico del mondo. Che voi fate ruote, c'è sempre ancora tanta innovazione da fare. Ahimè, non siamo mai i primi, quindi c'è sempre da correre ancora di più, insomma. Allora, la sua storia è particolare perché voi non fate un tipo di ruote, ne fate moltissimi tipi di ruote, li fate on demand, li fate anche, li comunicate con un blog. Insomma, sentiamo nella scheda tutto quello che fate. Ruote gommate iniettate, ruote elastiche, ruote in poliuretano, ruote monolitiche. Già, si fa presto a dire ruota, invece c'è ruota e ruota. È la macchina più vecchia del mondo, ma anche una delle più sofisticate, assicura Elena Lancellotti, 54 anni, laurea in economia, amministratore delegato della Tellure Rota di Formigine, in provincia di Modena, a due passi da Maranello. Elena Lancellotti se ne intende, perché da 6 anni guida l'azienda fondata 60 anni fa dal padre Roberto. Il primo a capire che l'innovazione poteva essere la chiave vincente anche in un settore, come appunto quello delle ruote, apparentemente ultramaturo. Risultato? La Tellure Rota oggi ha 150 dipendenti e una ventina di milioni di fatturato, il 60% dei quali realizzati sui mercati internazionali, e produce ogni giorno 40.000 ruote di ogni genere, capaci di reggere un peso da 300 a 3.500 kg e destinate a qualsiasi applicazione industriale e domestica. Se in casa avete un carrello portaoggetti, è probabile che le sue rotelle siano made in Formigine. Allora, dottoressa, ci faccia capire quante ruote avete in catalogo? Dunque, noi abbiamo circa 3.500 di ruote diverse a catalogo e sono, diciamo, ruote standard. Poi abbiamo circa 400-500 ruote che noi produciamo come prodotti speciali per risolvere, diciamo, caratteristiche o problematiche specifiche di movimentazione della nostra clientela. Ecco, però di ruote standard abbiamo circa 3.500 ruote. Comunque, insomma, siamo vicini alla ruota su misura, la ruota on demand. Sì, la ruota che sembra così un prodotto così semplice nella sua concezione, come si suol dire, un prodotto basso, di bassa tecnologia, sì. In realtà deve esserci solo quella giusta per il tipo di movimentazione giusta, per il tipo di pavimento, per il tipo di ingombro che porta. Quindi può solamente essercene una, cioè, sola di ruota. Ecco, lei mi sta dicendo che se io vengo da lei e le dico: guardate che io ho un parquet, la mia azienda ha il parquet, devo decidere come mettere le ruote sotto le sedie o sotto la lavatrice. No, la lavatrice no, perché si comincia, diciamo, a ballare. Che quando si parla di ruote, voi potete immaginare, si parla dalla ruota della bicicletta, ruota dell'automobile, la ruota dell'aeroplano, delle sedie. Noi sono tantissime le tipologie. Noi produciamo ruote per uso industriale domestico, quindi noi non siamo produttori di ruote, diciamo, per le sedie, né tantomeno per l'automobile, cioè, non per tremolada, per gli usi di tremolada, però, cioè, non per gli usi di tremolada, però se il signor Tremolada ha bisogno di un carrello per trasportare aspetti nel suo garage, noi possiamo avere le ruote sicuramente giuste, insomma. Senta, dottoressa, siamo nati per la movimentazione manuale all'interno degli stabilimenti. Ecco, siete nati per questo, ma appunto per quale ragione voi, che siete in terra di motori, insomma, di automobili, non fate le ruote anche per le automobili? È una questione di know-how, di concorrenza, di costi industriali, di specializzazione vostra? No, è un know-how completamente diverso. Diciamo che è proprio un settore completamente diverso. Intanto quelle sono ruote, diciamo, meccaniche, quindi con attrazione meccanica. Noi facciamo ruote a trazione prevalentemente manuale, quindi quelle che... Questo cosa vuol dire? Si deve spingere, è un carrello che si spinge. Esatto, esatto. Ma questo cosa vuol dire? Che come viene prodotta una ruota? Perché chiaramente, cioè, viene disegnata, cioè, è un processo artigianale, un processo industriale. Siamo molto curiosi. Io leggevo di materiali diversi con cui... Ruote pneumatiche, ruote monolitiche in resina, ruote in poliuretano... E come fate a decidere qual è la ruota giusta? Abbiamo diversi tipi di battistrada e il processo produttivo è particolarmente complesso, perché abbiamo diversissimi impianti proprio per seguire diversi tipi di battistrada. Ad esclusione della gomma, che però ci produce un nostro fornitore su specifico disegno, tutti i battistrada dell'azienda, delle ruote che noi produciamo, sono ad uso, li produciamo internamente. È per questo che occorre un livello di capitale investito piuttosto elevato. Quindi fate la ruota, ma anche il pneumatico. Noi il pneumatico, dicevo, ce lo fornisce un nostro fornitore, però tutti i battistrada delle ruote... Voi. Li produciamo noi, sì. Parliamo delle ruote in poliuretano, le ruote in nylon, le ruote in termo. Però adesso facciamo un gioco: a che cosa serve una ruota in poliuretano? Beh, la ruota in poliuretano è una ruota che, per esempio, porta carichi molto importanti, è molto scorrevole ed è una ruota che ha una durata abbastanza importante. Quindi resiste al peso? Resiste quindi al peso. Sì, perché la ruota ha un problema anche di portata, non solo, certo, di scorrevolezza. Quindi la ruota in poliuretano è la ruota tipica nel settore industriale. Le ruote monolitiche in resina che servono? Le ruote monolitiche sono quelle, per esempio, che diciamo durano e sopportano altissimi calori e quindi vanno benissimo per il settore dei carrelli per pane, per forni industriali, per settori alimentari dove occorre cottura degli alimenti. E la ruota perché non sembra, ma la ruota è trasversale a tutta l'economia. Quindi gli impieghi delle ruote sono veramente differenziatissimi. e per cui ci sono anche per esempio il settore dei forni industriali, che uno direbbe un settore, c'è un impiego abbastanza interessante di, e volumi interessanti di ruote. Cioè, la ruota... Ma diciamo che l'impiego maggiore è proprio nell'ambito del settore industriale. Ecco, ma la ruota che non è stata ancora inventata, che sembra un gioco di parole. La ruota quadra. No, ruota però quadra. Ci state studiando. Noi stiamo studiando molto. Anche la ruota quadra? No, stiamo studiando diciamo aspetti particolarmente innovativi, dove non c'è solo un aspetto meccanico, ma ci sono anche aspetti diciamo più elettronici o altre tecnologie, insomma, quindi stiamo continuamente investendo e cercando di studiare. Abbiamo per questo progetti di ricerca con l'Università di Modena, l'Università di Reggio. Ma qual è la facoltà? Mi tolga la, cioè, in quale corso di facoltà? Cioè, ingegneria? Diciamo ingegneria, scienza dei materiali e chimica. Sì. Certo. Diciamo che la chimica ha un impatto molto importante, ma comunque anche tutti gli aspetti, diciamo, di ingegneria, proprio anche fisica. Allora, dottoressa Lancellotti, lei non fa, ci diceva prima, le rotelle per le sedie, però ci sarà la rotella più semplice del mondo? Non ho capito la domanda. La rotella più semplice che fate? La rotella che cosa serve? Facciamo forse quella che noi è una molto molto antica e si chiama la ruota 53, è una ruota che ha un battistrada in gomma. E che serve? Dove la trovo? Dove la diciamo si applica? Diciamo che noi la trova, se vuole avere proprio un'idea del nostro prodotto, uno dei prodotti più importanti, lo troverà nei cassonetti raccolta rifiuti. Ottimo! Ecco. Quindi le ruote dei cassonetti sono vostre? Le ruote dei cassonetti sono indiscutibilmente nostre, perché noi su questo settore siamo leader in Siete Europa. Monopolisti, insomma. Nova Lab 24. E eccoci in studio, 16:47, Sanno Mangiaterra, ci ha raggiunto Pierangelo Soldavini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Passionatissima, stiamo reinventando, ristudiando la ruota. Siamo in compagnia di Elena Lancellotti, amministratore delegato della Tellure Rotta. Ma ora andiamo a vedere che cosa ha scoperto Sanno Mangiaterra, che ha dato una sbirciata al blog della Tellure Rotta. Gli archeologi hanno ritrovato la più antica ruota del mondo in Slovenia. È quanto sostiene Anton Velušek dell'Istituto Archeologico dell'Accademia delle Arti e delle Scienze Slovena. Il ritrovamento è stato effettuato in un antico insediamento nei pressi di Lubiana. Questa è una delle notizie che si trovano entrando nel blog della Tellure Rota, un blog pieno di curiosità. Si scopre, per esempio, che l'azienda di Formigine è stata scelta per assicurare il movimento a uno dei troni marmorei di Benedetto XVI, ma nello stesso tempo uno strumento di marketing, un modo per stare in contatto con le esigenze della clientela mondiale, incluse ovviamente le vendite online. È la caratteristica vincente della Tellure Rota, realizzare un prodotto antichissimo, utilizzando materiali ultramoderni e sfruttando tutte le opportunità, comprese quelle offerte dalle tecnologie digitali. Allora, ma Lancellotti, ma vi serve il blog? Cioè avete uno strumento di marketing, come insomma scriveva Mangiaterra, oppure serve per vendere ruote? Diciamo che serve? Intanto, sono solo un anno e mezzo che abbiamo questo strumento, è uno strumento bidirezionale, ancora oggi non c'è tantissimo traffico, non credo che serva proprio per il marketing, ma quanto serve per mettere insieme questa comunità di tutti questi utenti che possono dare informazioni e che possono estrarre formazioni. Un po' la coda lunga della ruota, verrebbe da dire, cioè un po' la coda lunga della ruota, cioè l'appassionato, l'amatore di questi prodotti che si ritrova. Noi tutto il giorno produciamo ruote, però molte volte ci siamo trovati con degli impieghi talmente strani, talmente particolari, che abbiamo voluto, ritenuto interessante poterne fare una raccolta. Non credo che serva per vendere, ma quantomeno serva per poter raccogliere delle informazioni simpatiche e interessanti. Lo facciamo ma rapidissimamente, com'è il trono del Papa? No, il Papa è un trono, adesso c'è la fotografia sul blog, è una sedia abbastanza importante, abbastanza pesante, perché ha di materiale particolarmente pregiato, particolarmente pesante, e lì c'era una peculiarità di ruote che avessero scorrevolezza. Ma a che velocità viaggia, scusi? No, parliamo di una velocità... E le ruote del trono del Papa sono pneumatiche, monolitiche in resina, poliuretano, come sono? Poliuretano, okay. Perché ne abbiamo scoperta un'altra. Che consente di rovinare meno il pavimento perché ha un'ottima scorrevolezza. Sì, che sono pavimenti antichissimi, tra l'altro. Esatto, può rovinare San Pietro. Se i grafi vengono da lei. Senta, noi siamo qui in compagnia di Pierangelo Soldavini, che è il vice caporedattore di Nova 24. Buongiorno. Ce l'abbiamo già salutato, lo risalutiamo. Perché, insomma, vediamo di capire domani che cosa uscirà in edicola. Potremmo ripartire da San Pietro, visto esatto. Che magari anche le ruote potrebbero servire così a presentare il patrimonio culturale. Noi siamo andati a scoprire un po' nuovi modi di rivalutare il patrimonio culturale italiano, nel senso che sappiamo che ovviamente l'Italia è paese storico per eccellenza, si ritrova un patrimonio che non è soltanto frutto del caso, ma è frutto di una storia, di secoli di storia e di cultura. Ci sono molti luoghi che hanno saputo, grazie alla tecnologia e al cosiddetto design del patrimonio culturale, rivalutare questi tesori. Per cui appunto siamo andati a vedere un po' che poi è la grande sfida, cioè nel senso, per un paese come l'Italia, che al 90% mi sembra dei beni artistici nel mondo, mi sembra, adesso poi qualcuno... Comunque siamo tanto, comunque è senz'altro è uno dei cool della storia. Comunque insomma. Siamo sempre lì, no, Soldavini? Cioè le nuove tecnologie applicate a industrie, a settori industriali molto tradizionali, al patrimonio, alla nostra storia e ai nostri punti di forza tradizionali. Esatto, sì, no, ma io credo che sia, come dire, un po' come sottolineiamo noi nella nostra copertina, non soltanto il fatto di dire abbiamo un patrimonio, sfruttiamolo in qualche modo, che senza, in chiave turistica per attirare persone così, che senz'altro è importante, ma vuole essere anche una prosecuzione, una rivalutazione della nostra storia, per cui i monumenti che abbiamo, a partire da San Pietro, ma tutti i castelli, tutti gli antichi villaggi romani, etruschi, ne abbiamo in ogni dove, possono essere ripresi come storie. Io credo che dovunque si vada, anche il più piccolo paesino, se voi vedete, c'è la libreria dove c'è la storia di quel paese, ci sono c'è il castello, ci sono i ruderi, ci sono le statue, così, che ricostruiscono la storia di quel micro territorio. Allora, perché non rivalutarlo nel piccolo, nel grande, in maniera tecnologicamente avanzata, magari con piccoli strumenti, con piccoli sistemi, ma per permettere di fruire e di ricostruire questa storia. Tra l'altro, oltre a questo, ricordo che l'Italia è uno dei grossi paesi esportatori di tecnologia per il patrimonio artistico, che sia di conservazione, di restauro. Siamo uno dei paesi più avanzati in questo senso, e anche per quanto riguarda le tecnologie di rivalutazione del territorio, che vuol dire magari utilizzare quelle stesse cose, un castello, non solo per portarci dei turisti, ma magari per farlo rivivere in altro modo, con delle immagini. Questa è la vocazione italiana per eccellenza. Sentite la musichetta, ci stanno sfumando, però insomma abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire sul nuovo numero di Nova. Io ringrazio Elena Lancellotti per averci raccontato una... Grazie a lei, avermi contattato, e questo mi ha fatto molto piacere essere con voi. Grazie. Grazie, un aspetto nuovo della ruota, grazie Sandro Mangiaterra, noi ci sentiamo domani alle 16:30. Buona giornata. Nova Lab 24.